Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, bentrovati e buona serata a tutti. Al termine di una giornata che probabilmente per qualcuno è stata una giornata intensa di lavoro, per altri una giornata di offerta, ci troviamo qui attorno alla parola di Dio per continuare il nostro percorso attorno al Vangelo di Marco. Questo nostro programma mensile ha come obiettivo quello di non solo scavare dietro il testo narrativo di Marco facendoci gustare la bellezza della sua narrazione, ma anche quello di far notare come la parola di Dio interpelli e parli alla nostra vita. Vorrei iniziare questa sera prendendo spunto da una lettera che mi è giunta in questo mese da una signora di Brescia, che così scrive alla fine della sua lettera. Mi domanda, fino a che punto possiamo leggere semplicemente la parola e da essa lasciarci interrogare e interpellare con spontaneità e semplicità? E poi aggiunge, poiché noto che a questo punto ognuno la potrebbe interpretare secondo le proprie esigenze e aspettative. Fino a che punto possiamo lasciarci andare nella nostra lettura alla nostra personale interpretazione, dovuta anche al nostro vissuto o percorso esistenziale, culturale, anche di peccato? Ecco, vorrei che fosse chiara una cosa in queste nostre trasmissioni. È vero che ai microfoni cerco di illustrare queste pagine di Marco andando anche dietro le sottigliezze della terminologia greca, però non è che chi non possiede questi strumenti non può accedere alla profondità della parola di Dio. Tutti possiamo accedere alla profondità della parola di Dio. L'importante è che assicuriamo tre principi fondamentali. Il primo principio è quello di leggere la parola di Dio in un clima di preghiera. Il primo esegeta, il primo maestro della parola di Dio è lo Spirito che abita i nostri cuori ed è a questo stesso Spirito che affidiamo anche la puntata di questa sera, perché è Lui che apre i cuori alla parola di Dio, come successe agli apostoli, a Paolo, a Pietro, ai dodici nel loro primo ministero pubblico. Quindi il primo atteggiamento è quello di ascoltare la parola in un contesto di preghiera. Secondo strumento per essere sicuri di non dare delle interpretazioni puramente personali è lo studio, mantenere un atteggiamento di ricerca, di approfondimento. Oggi sono molti gli strumenti che sono a disposizione per approfondire i singoli Vangeli, anche solo il Vangelo di Marco, e quindi bisogna valorizzare questi strumenti perché ci offrono una prima opportunità di scavare dentro il testo. Terzo strumento importante è il confronto. Proprio per evitare delle letture troppo personali della parola di Dio, ecco l'importanza del confronto, un confronto ecclesiale, un confronto comunitario, un confronto che è anche quello che viene offerto da Radio Maria attraverso queste trasmissioni. Se voi ci fate caso, ogni trasmissione è sempre costruita in due parti. C'è una parte in cui il relatore presenta la sua esposizione e c'è una seconda parte che viene lasciata invece alle vostre domande. Come amo sempre ripetere, questa seconda parte è importante quanto la prima, perché è lì che si stabilisce quel confronto che permette di chiarire, permette di aggiustare, di raddrizzare alcune interpretazioni che altrimenti rischierebbero magari di essere troppo personali o troppo legate alla cultura di chi parla. Quindi quando noi assicuriamo, e così rispondo all'ascoltatrice che mi ha scritto, quando noi assicuriamo queste tre dimensioni, la preghiera, lo studio, il confronto che nasce dalla comunione, penso che possiamo camminare, ecco, con serenità all'interno del Vangelo. Ecco, allora, affidandoci anche questa sera allo Spirito Santo, continuiamo nella nostra lettura del Vangelo di Marco. Come sapete, siamo nel momento in cui Gesù è arrivato alla città di Gerusalemme. Come vi dicevo la volta scorsa, l'arrivo di Gesù a Gerusalemme è caratterizzato da tre visite nel luogo santo per eccellenza, tre visite nel Tempio. nella prima visita al Tempio Gesù si guarda attorno, vede un po' tutto quello che succede e poi si ritira nella notte a Betania. La seconda visita al Tempio è caratterizzata dal segno forte della cacciata dei mercanti del Tempio che abbiamo commentato la volta scorsa. Nella terza visita, che commenteremo stasera, Gesù si trova a discutere con le autorità religiose, queste autorità che lo incalzeranno con tutta una serie di interrogativi che hanno come finalità quella di volere incastrare il maestro che viene da Nazaret. Ma cominciamo ad ascoltare il testo, divideremo la nostra lettura in tre momenti, in tre tappe, vedendo come in queste tre tappe di volta in volta Gesù si confronta con le autorità religiose. Vi invito, per chi ha la possibilità, a prendere in mano la Bibbia e ad aprirla al capitolo 11 del Vangelo di Marco. Iniziamo la nostra lettura da dove ci siamo lasciati la volta scorsa, vale a dire dal versetto 27, dove viene inaugurata questa terza visita di Gesù al Tempio di Gerusalemme. Ascoltiamo il testo. Giunsero di nuovo a Gerusalemme. Mentre egli passeggiava nel Tempio, gli si accostarono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, dicendogli: con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di farle? Gesù replicò loro: vi sottoporrò una questione. Rispondetemi, e anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano tra loro dicendo: se diciamo dal cielo, dirà, perché allora non gli avete creduto? E se dicessimo dagli uomini? Ma temevano la folla. Tutti infatti consideravano Giovanni come un profeta. Quindi risposero a Gesù: non lo sappiamo. Gesù disse loro: nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Ecco, la terza visita di Gesù al Tempio di Gerusalemme inizia in questo modo, riproponendo una questione che ha caratterizzato parecchio del ministero pubblico di Gesù, la questione dell'autorità. Ecco, per chi è un po' familiare con il Vangelo di Marco sa che la questione dell'autorità di Gesù è già emersa altre volte durante la narrazione. Era emersa all'inizio del suo ministero pubblico a Cafarno, quando dopo la guarigione di un paralitico le folle si erano poste la domanda con un senso di stupore, dicendo: ma che è mai questa autorità? Comanda persino agli spiriti immondi e questi gli obbediscono. In un'altra situazione invece si trovava in casa con i discepoli, quando gli scribi scesi da Gerusalemme, di fronte ai suoi esorcismi, non esitano ad attribuire l'autorità di Gesù a Beelzebul, capo dei demoni, e dicono: è con l'autorità di Beelzebul che scaccia i demoni. Una terza circostanza aveva confrontato invece Gesù con i parenti a Nazaret. Quando i parenti, sentendolo, i suoi connazionali, sentendolo parlare, dicono: ma che è mai questo linguaggio e che autorità è mai questa? Non è questo il figlio di, e così via. Quindi l'autorità di Gesù era stata messa già in discussione, era già stata sollevata la questione sull'autorità da tre ambiti ben precisi di coloro che ascoltavano: le folle, le autorità religiose, il mondo dei connazionali della parentela. In altre parole, tutti i possibili gruppi umani che circondavano Gesù erano intervenuti su questo aspetto. Ed ora ecco che riemerge, e riemerge sulle labbra delle autorità religiose, quelle stesse autorità religiose che saranno poi protagoniste della condanna a morte di Gesù. Perché pongono l'interrogativo a Gesù in merito all'autorità? Vogliono sapere da Gesù a quale gruppo Gesù appartiene. Vogliono sapere chi è che lo sta mandando. Gesù, non dimentichiamolo, ha appena compiuto il gesto della cacciata dei venditori dal Tempio. Bene, la gente vuole sapere, le autorità religiose vogliono sapere chi l'ha spinto a compiere quel gesto. La cosa significativa è che Gesù non si lascia classificare. Gesù non si lascia classificare né dalle cosiddette sagrestie del tempo, dalle autorità religiose del tempo, né dai gruppi politici del tempo. Ecco perché risponde ponendo un'altra domanda che di per sé è una domanda ambigua, perché Gesù pone le autorità religiose davanti a una scelta quando dice loro: bene, prendiamo il caso di Giovanni Battista. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Ecco, di fronte a questa domanda le autorità religiose sono obbligate a scegliere. Se dicono dal cielo, riconoscono in Giovanni Battista un carisma e quindi sono obbligati a riconoscere questo carisma anche in Gesù, perché di fatto Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico con il battesimo al Giordano, quindi entrando, ponendosi nel solco di Giovanni Battista. Teniamo presente la definizione viene dal cielo, cielo è un modo per dire Dio, quindi se riconoscono che Giovanni Battista è venuto da Dio, sono obbligati a riconoscere che anche Gesù viene da Dio e quindi quell'autorità che gli stanno contestando viene da Dio, non può essere contestata. E le autorità religiose si rendono conto di questo, tanto vero che discutendo tra di loro dicono: e se dicessimo dagli uomini? Ma il problema è che se dicono dagli uomini si espongono a un giudizio, il giudizio della folla che li sta ascoltando, e per la folla Giovanni Battista non è uno qualunque, Giovanni Battista è l'unto di Dio. Teniamo presente che nel primo secolo la questione di Giovanni Battista era molto sentita. Erode, che lo aveva fatto mettere a morte, portandolo alla decapitazione, visse con l'incubo dell'ombra di Giovanni Battista su di lui e anche quando subì delle sconfitte molto dure in battaglia, la voce che circolava tra il popolo era: questa è la punizione che viene da Dio per aver fatto decapitare Giovanni Battista. Quindi c'era veramente un sentore popolare che noi possiamo ricostruire anche dalle fonti degli storici del tempo, c'era un sentore popolare che riconosceva in Giovanni Battista un'autorità che non veniva solo dagli uomini, ma che veniva da Dio. Posti quindi di fronte a questa strettoia, le autorità religiose rispondono a Gesù dicendo: non lo sappiamo. E Gesù quindi non risponde nemmeno lui alla domanda che è stato fatto, nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose. In altre parole, non c'è nessuna risposta che Gesù possa dare davanti a dei cuori chiusi. Qui sta il punto: quando un cuore è chiuso, uno può fare tutti i tentativi possibili perché in quel cuore possa entrare la parola di Dio, ma quel cuore è chiuso e quindi la parola di Dio scivola come acqua su quel cuore. Ecco allora che Gesù tenterà in altro modo di schiudere quei cuori e lo farà con la parabola che troveremo subito dopo e che commenteremo dopo. Vorrei però soffermarmi ancora su un piccolo aspetto di fronte a questo primo confronto tra Gesù e le autorità religiose che sfocia poi in una parabola. E vorrei soffermarmi proprio sull'opposizione che si viene a creare tra il cielo e gli uomini. Dietro questa opposizione tra il cielo e gli uomini c'è l'opposizione di due logiche molto diverse. Da una parte c'è la logica di Dio, che passa attraverso il ministero della sofferenza, ma che garantisce la persona che è coinvolta di una libertà totale. Cioè Gesù ha un'autorità che viene da Dio, questa autorità lo porterà a donare la vita per gli uomini, a soffrire perché denuncia, dice la verità, dice le cose come stanno, però questo gli garantisce una libertà di fondo. Dall'altro c'è la logica degli uomini, un'autorità, quella degli uomini, che passa dalle logiche di potere, che passa dai partiti politici, che si caratterizzano per non solo la paralisi costante per i condizionamenti legati alle mille implicazioni politiche dovute a questa scelta, ma che impedisce la totale libertà. Ed è quello di cui sono prigioniere le autorità religiose. Quindi se da un lato noi abbiamo l'autorità che viene dal cielo, che ci mostra un Gesù che non ha paura di parlare, non ha paura di muoversi a suo agio all'interno del Tempio, non ha paura di compiere dei gesti impegnativi come la cacciata dei venditori del Tempio, dall'altro abbiamo le autorità religiose che non sono in grado di rispondere a una domanda per le implicazioni politiche che la loro risposta può avere, che sono prigionieri della folla stessa perché hanno paura che la folla si ribelli a loro, che sono prigionieri delle loro logiche politiche al punto tale che Gesù li sta disturbando e hanno paura di quello che le azioni di Gesù possono suscitare. Quindi due logiche di fronte alle quali il Maestro di Galilea ci invita a scegliere, dicendoci già che la scelta non è facile, perché se le autorità religiose non sanno dire sì o no, viene dal cielo o viene agli uomini, figuratevi le folle. Ecco allora che si erge in questo primo brano Gesù come modello, un modello di coerenza che è capace di portare avanti il progetto di Dio, costi quel che costi, un modello impegnativo. Prima di continuare nella nostra riflessione a partire dalla parabola che ci farà capire quanto può essere impegnativo questo modello di coerenza, lasciamo ora qualche istante di stacco musicale, in modo che ciascuno di noi possa ritornare su questi versetti, rileggerli e interiorizzarli. Dopo il breve stacco musicale continueremo con la parabola del capitolo 12, che è conosciuta come la parabola dei vignaioli omicidi. Bene, il racconto, come vi dicevo, sfocia a un certo punto, di fronte al silenzio delle autorità religiose, in una parabola. Allora, ascoltiamo i versetti da 1 in poi del capitolo 12. Gesù cominciò a parlar loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò un frantoio, costruì una torre, l'affidò a dei contadini e partì per un viaggio. Al tempo giusto inviò ai contadini un servo per ricevere da loro parte dei frutti della vigna. Essi però, afferrandolo, lo percossero e lo rimandarono a mani vuote. Egli inviò loro di nuovo un altro servo. Colpirono anche quello alla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e lo uccisero. Poi molti altri, alcuni dei quali furono colpiti, altri uccisi. Ne aveva ancora uno, il figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: «Avranno rispetto di mio figlio». Quei contadini però dissero da sé: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, così l'eredità sarà nostra». E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa dunque farà il padrone della vigna? Verrà, ucciderà i contadini e darà la vigna ad altri. Non conoscete questo passo della scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata, proprio questa è divenuta una pietra d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Essi cercarono di arrestarlo, ma avevano timore della folla. Sapevano infatti che aveva detto quella parabola per loro. Allora lasciatolo, se ne andarono. Ecco, con questa parabola Gesù risponde alla domanda che gli è stato fatto. Gesù risponde, in altre parole, all'interrogativo sulla sua autorità. Dimostra da chi proviene la sua autorità attraverso questa parabola. Questa parabola si ispira ad un brano dell'Antico Testamento, un testo tipico del profeta Isaia, che utilizza l'immagine della vigna come emblema del popolo di Dio. Se mi permettete vorrei leggere il capitolo 5 di Isaia, versetti 1-7, per poi fare un confronto tra questo testo e la parabola narrata da Gesù e mostrarvi come Gesù modifichi il racconto della parabola per comunicare un preciso messaggio ai suoi ascoltatori. Il testo di Isaia dice così: «Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa produsse acini acerbi. Ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici tra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Ecco, questo canto della vigna del capitolo 5 di Isaia fa da sfondo alla parabola del capitolo 12 di Marco. Entrambe sottolineano tutte le attenzioni del padrone della vigna. L'abbiamo ascoltato in Isaia, l'abbiamo ascoltato anche nella parabola di Gesù. Gesù dice molto chiaramente: un uomo pianta la vigna, la circonda di una siepe, scava un frantoio, costruisce una torre. Tutti gli elementi spaziali sono coinvolti. È coinvolto l'aspetto verticale nei confronti del cielo, costruire una torre, è coinvolto l'aspetto della profondità, scavò un frantoio, è coinvolto l'aspetto circolare, circondato di una siepe. Isaia diceva, aggiungeva a questi elementi il fatto di aver dissodato e sgombrato di sassi la vigna, cioè tutte le cure che potevano essere, che potevano caratterizzare il lavoro del padrone della vigna, sono coinvolte. Non si può fare di più. Tanto vero che la domanda che Isaia faceva è: ora vi voglio domandare, che cosa poteva fare di più ancora, cosa potevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Cioè, più di così non si poteva fare. E lo stesso vale per la parabola raccontata da Gesù. Fin qui quindi le due parabole camminano insieme. Tra l'altro Isaia ci dice anche qual è il significato della vigna. La vigna è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita, appunto. Quindi questo è il codice attraverso il quale decodificare la parabola. Poi a un certo punto però i racconti divergono. Se nel caso di Isaia il punto problematico è la vigna, quindi è il popolo di Israele, nel caso invece della parabola narrata di Gesù il punto problematico non è la vigna ha prodotto frutti. Il punto problematico sono coloro a cui questa vigna è stata affidata. Quindi la questione problematica sono le autorità religiose. Gesù qui si sta rivolgendo, diversamente da Isaia, direttamente alle autorità religiose, che sono colpevoli di un crescendo nel rifiuto. Quindi davanti alla parabola di Gesù noi assistiamo praticamente a un duplice crescendo. Da un lato abbiamo il crescendo dell'ostilità, per cui prima insultano, poi colpiscono alla testa. Pensate, alcuni ritengono che il verbo utilizzato qui da Gesù faccia un esplicito riferimento a Giovanni Battista, che è stato decapitato, privato della testa. Il verbo utilizzato richiamerebbe il verbo della decapitazione per alcuni. Altri li uccidono e poi arriverà il figlio amato. Quindi c'è un crescendo di ostilità. Bene, di fronte a questo crescendo di ostilità si oppone un altro crescendo, che è il crescendo del padrone della vigna, che che invece di essere di opporsi al crescendo dell'ostilità con un'ostilità anche da parte sua, si oppone invece mostrando una fiducia sempre più ampia, tanto vero che prima manda un servo, poi ne manda ancora un altro, poi ne manda altri ancora fino a finire la sua servitù e alla fine arriva il culmine con inviando niente meno che il figlio amato, che uno da un punto di vista umano direbbe: ma questo atteggiamento da parte del padrone della vita è assurdo, ha visto che stava sacrificando uno dopo l'altra la vita delle persone che facevano parte della sua famiglia, come osa mandare alla fine anche il figlio amato? Eppure la motivazione che il padrone dà è: avranno rispetto per mio figlio, cioè quello che gli sta a cuore è che venga ristabilita il rispetto nella relazione, venga ristabilita la relazione. Curiosa anche la sottolineatura dell'Evangelista che si premura di dire che i contadini sono mandati, i servi sono mandati per ricevere parte dei frutti della vigna dai contadini, cioè questo padrone è talmente attento alle persone a cui ha affidato la sua vigna che non pretende tutti i frutti, ma pretende solo parte di essi, l'altra parte viene lasciata a chi ha lavorato attorno a quella vigna. Quindi ci sono tutti gli elementi per sottolineare la positività del rapporto, dell'atteggiamento del padrone e la negatività dell'atteggiamento dei vignaioli. Questa negatività però esplode solo davanti al figlio amato, e anche qua il termine utilizzato per indicare il figlio amato, iuion agapeton, è importante in greco, perché richiama due passaggi in Marco, due passaggi in cui abbiamo sentito la voce di Dio su Gesù, quello al Giordano dove Gesù dice: tu sei il mio figlio, l'amato in cui ho posto il mio compiacimento, e il secondo è la voce sul monte della Trasfigurazione, dove la voce del Padre dice: questi è il figlio amato, ascoltatelo. Quindi per la terza volta torna la definizione di Gesù come il figlio amato, definito appunto dal padrone della vigna, quindi da Dio. Gesù è l'incarnazione di questo amore e questo figlio amato viene rifiutato da coloro che dovrebbero averne rispetto. Addirittura il rispetto si tramuta in un oltraggio, perché il figlio amato non solo viene ucciso, ma viene buttato fuori della vigna e lasciato insepolto, con la scusa di prendersi la proprietà che non appartiene. E qui dobbiamo entrare un attimo nella cultura del primo secolo. Nella cultura del primo secolo, coloro che si occupavano di una proprietà, se questa proprietà non veniva rivendicata dal proprietario, dopo un tot di anni passava sotto chi l'aveva lavorata. Ora, noi qua siamo di fronte a un padrone che non si reca sul posto, che sul posto manda prima i servi, poi il suo figlio, l'amato. Bene, il ragionamento delle autorità qual è? Dei contadini qual è? Il ragionamento dei contadini è: questo è l'unico erede, facciamolo fuori. Il padre di famiglia probabilmente è morto perché non viene a ritirare le sue proprietà, quindi alla fine diventeremo noi i padroni di tutto. Questa immagine è un'immagine molto forte, perché in altre parole Gesù con la sua parabola sta accusando le autorità religiose di una cosa molto grave, cioè al posto di gestire l'opera di Dio, loro si vogliono impossessare dell'opera di Dio, facendo di quest'opera una proprietà loro, mentre questa proprietà non appartiene a loro, è e resta di Dio. Gesù mette in guardia le autorità religiose dell'appropriarsi di qualcosa che invece deve rimanere nell'ambito del mistero, nell'ambito del sacro, ed è proprio questo che Gesù vuole tutelare. L'autorità con cui Gesù è intervenuto cacciando i venditori del Tempio è proprio quella che viene da Dio, che vuole tutelare la sacralità del disegno di Dio sul popolo. Solo in questo modo il popolo potrà essere rispettato, solo ricordando che il popolo appartiene a Dio e non appartiene alle autorità religiose. guardate, dietro questa parabola c'è una grandissima provocazione per tutti noi. In ogni grado, in qualsiasi grado noi svolgiamo il servizio all'interno della Chiesa. Ovviamente i primi ad essere interpellati siamo noi sacerdoti, noi che abbiamo una responsabilità sul popolo di Dio. Gesù ci mette in guardia ricordandoci che il popolo appartiene a Dio ed ha un grande valore di fronte a Dio. Quindi guai a coloro che trasformano in loro proprietà e dettano la loro legge, dimenticando che invece devono essere portavoci di un altro con la A maiuscola. Ecco, guai perché? Il perché lo troviamo proprio nel commento che Gesù fa alla parabola, quando dice: che cosa farà il padrone della vigna? Verrà, ucciderà i contadini e darà la vigna ad altri. Ecco, qui Gesù utilizza un'immagine, delle immagini forti, quella dell'uccisione, del passaggio della vigna da alcune mani ad altre. Un linguaggio tipico anche della sensibilità medio orientale, che ama le tinte forti. Qua Gesù utilizza queste tinte forti. Stiamo però attenti ad alcuni commenti che sono stati fatti nel solco della tradizione. Alcuni hanno visto in questa pagina la parabola che diceva il rifiuto da parte di Dio del popolo ebraico per affidare la promessa al popolo che nasce dal cristianesimo. Ora, la parabola non dice niente di tutto questo. La vigna non viene intaccata come in Isaia 5, la vigna resta preziosa agli occhi di Dio. Chi cambia sono coloro che di questa vigna hanno la responsabilità, quindi c'è un passaggio delle autorità religiose. Gesù mette in discussione l'autorità religiosa che scribi, farisei, i capi dei sacerdoti stanno portando avanti sul popolo di Dio, ma non viene meno il popolo di Dio. Il popolo di Dio resta il popolo amato dal Signore, che passa ora nelle mani di Cristo. Cristo che sarà quella pietra scartata dai costruttori, morirà sulla croce fuori dalla città di Gerusalemme, ma che diventerà la testata d'angolo, la pietra d'angolo. E qui è interessante anche soffermarci un attimo su questa immagine, l'immagine della pietra angolare. La pietra angolare non va intesa come pietra posta a fondamento di un edificio e nemmeno come pietra che viene posta nella copertura di un arco che funge da punto di unione delle due parti dell'arco. No, la pietra angolare era quella che univa le pareti e il tetto di una casa. Quindi colei che unisce ed è praticamente una delle ultime pietre, no, che vengono messe a sigillo dell'edificio, è praticamente il punto in cui tutti gli elementi trovano unità e consistenza. Ecco, questa pietra angolare è il Cristo stesso, Gesù stesso. Lì tutti gli elementi della casa, tutti i carismi della Chiesa, della comunità, del popolo di Dio, trovano il loro punto di riferimento. Come reagiscono le autorità religiose di fronte alla lettura che Gesù fa, alla rilettura che Gesù fa del cantico della vigna di Isaia con questa parabola? Reagiscono come ci diceva il versetto 12. Cercavano di arrestarlo, ma avevano timore della folla. Sapevano infatti che aveva detto quella parabola per loro, cioè si rendono conto che le persone che sono su cui Gesù sta puntando l'attenzione sono proprio le autorità religiose. Cercano, vorrebbero arrestarlo, ma non possono, sono legati di fronte all'immagine che rischiano di dare alla folla, e allora cosa fanno? Se ne vanno. Capita spesso, capita anche a noi, quando stiamo intavolando una discussione con qualcuno e questa discussione a noi non piace, magari sta mettendo in risalto qualcosa che ci dà fastidio, sta mettendo in risalto un nostro nervo scoperto, in genere cosa si fa? Si alza la voce e ce ne andiamo, alziamo la voce e ce ne andiamo. Facciamo in modo di troncare quella discussione, proprio perché ci appunto sul vivo. Lo stesso fanno le autorità religiose, lasciatelo, se ne andarono, troncano, non vogliono più continuare quella discussione, ma hanno già espresso il loro verdetto, è un verdetto di condanna, vorranno mettere Gesù a morte. Ecco allora che da questo momento in poi le autorità religiose cercano di portare avanti questo loro disegno cercando di incastrare Gesù, e lo vedremo subito nel brano successivo. Ecco, prima però di passare al brano successivo, chiedo ancora alla regia di mandare un altro stacco musicale in modo che ciascuno di voi, cari ascoltatori, può rileggere questi 12 versetti della parabola che ci preparano poi a continuare nella nostra lettura. Quindi le autorità religiose se ne vanno, ma non rinunciano al progetto di incastrare Gesù. E lo notiamo subito da come continua il nostro racconto. Allora leggiamo l'ultimo brano di questa nostra riflessione, questa sera, per poi commentarlo insieme. Siamo al versetto 13 del capitolo 12 di Marco. Gli inviarono allora alcuni farisei ed erodiani per incastrarlo con le sue stesse parole. Venuti da lui, questi gli dissero: «Maestro, sappiamo che tu sei veritiero e non hai soggezione di nessuno. Infatti non ti lasci condizionare dal rispetto umano, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo pagare o non lo dobbiamo pagare?» Egli, conoscendo la loro ipocrisia, rispose: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda». Glielo portarono. Quindi disse loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?» Essi replicarono: «Di Cesare». Allora Gesù disse: «Restituite a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Ed erano stupiti di lui. Ecco, questo è il primo tentativo con cui le autorità religiose cercano di incastrare Gesù. Non a caso uso questo verbo, il verbo utilizzato in greco indica proprio l'atteggiamento di chi vuole imprigionare una preda. È un verbo utilizzato soprattutto nell'ambito della caccia per prendere nella rete gli uccelli, i pesci o comunque gli animali da caccia. È qualcosa fatto per incastrare, irretire, bloccare la persona, catturare la persona. Il modo in cui vogliono catturare Gesù è quello di mettergli davanti una domanda di fronte alla quale Gesù deve rispondere sì o no, e rispondendo in uno o nell'altro modo resta comunque incastrato, un po' come la domanda che Gesù aveva fatto loro: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Sia in un modo che nell'altro le autorità religiose erano incastrate dalla cosa, tanto vero che non avevano risposto. Gesù invece non si sottrae alla risposta, risponde, ma in modo più saggio, portando la riflessione a un altro livello. Notiamo prima di tutto come le persone che vengono mandate da lui sono i farisei e gli erodiani. Sono due posizioni diverse di fronte all'autorità politica. Gli erodiani erano favorevoli a una situazione di compromesso con l'impero romano, i farisei erano divisi. C'era chi rifiutava questo compromesso, chi invece era a favore. Iniziano elogiando Gesù. Quando qualcuno ti elogia, lo sappiamo anche noi, bisogna sempre stare attenti, vuol dire che ci deve chiedere qualcosa o ci sta tirando un tranello, quindi non bisogna mai lasciarsi infatuare troppo dalle lodi che si ricevono, no? A un certo punto, dopo aver elogiato Gesù e avergli detto che è uno che non guarda in faccia a nessuno, cioè questa sarebbe proprio la traduzione letterale, non guardi in faccia agli uomini, non guardi in faccia a nessuno, gli fanno la domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo pagare o non lo dobbiamo pagare? Il tributo in questione è il censo. Che cos'è il censo? Era il tributo con cui che ogni persona adulta superiore ai 14 anni doveva pagare all'impero romano e che permetteva all'impero romano di censire le persone che erano sottomesse all'impero. Quindi non era solo una tassa da pagare più o meno alta, ma era un modo per l'impero di ricordare a coloro che pagavano che erano sottomessi a un'autorità, che era l'autorità imperiale, era l'autorità di Cesare. Quindi, se Gesù risponde è lecito pagare il tributo, vuol dire che Gesù riconosce l'autorità di Cesare, ma a questo punto, riconoscendo l'autorità di Cesare, mette in qualche modo in discussione l'autorità di Dio, si mette in qualche modo dalla parte dell'oppressore, si schiera a favore degli erodiani, contraddicendo tutti gli sforzi dei farisei che riconoscono come autorità unica quella di Dio. Se dice non bisogna pagare il tributo a Cesare, si mette invece dalla parte opposta, si mette dalla parte di chi gioca il ruolo del ribelle e quindi rischia di porsi contro l'autorità politica del tempo, quindi di inimicarsi non solo gli erodiani ma anche tutte le autorità religiose. Non è che questo a Gesù importi più di tanto, a Gesù importa di portare la riflessione sul giusto livello. Notiamo che Gesù interviene mettendo in risalto la loro ipocrisia e poi dicendo perché mi tentate. C'è tutta una prima parte di questo racconto che gioca sull'immagine della faccia e della maschera. Gesù non guarda in faccia a nessuno, riconosce l'ipocrisia, l'ipocrisia è il mettersi una maschera, il termine ipocritese è la maschera in greco, la maschera utilizzata a teatro, e dopodiché vuole vedere l'immagine, il volto di Cesare sulla moneta. Di fronte a questo dice chiaramente di chi è questa immagine che viene utilizzata, di chi è questa eikon, l'icona che viene utilizzata, e la gente gli risponde di Cesare. Bene, la risposta di Gesù è: date a Cesare quello che è di Cesare, le cose di Cesare portano la sua impronta, la sua immagine, che è appunto quella sigillata sulla moneta, quindi restituite pure la moneta a Cesare. Ma Gesù aggiunge una cosa importante: date a Dio quello che è di Dio. E qua la riflessione va subito al racconto della Genesi. Nel racconto della Genesi, al capitolo 1, al versetto 27, ci viene ricordato che esiste un'altra immagine, che non è l'immagine di Cesare, ma è l'immagine di Dio. Versetto 1, capitolo 1, versetto 27 del libro della Genesi, il narratore ricorda che Dio creò l'uomo a sua immagine. Viene utilizzato lo stesso termine nella traduzione greca della Bibbia, nella 70, eikon. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi nel momento in cui Gesù dice restituiti a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, Gesù non sta dicendo altro che a Cesare si possono dare le cose, ma le persone restano sotto la protezione di Dio, perché le persone sono a immagine di Dio e quindi si possono dare le monete, si possono pagare i tributi a Cesare, ma Cesare non potrà mai essere padrone delle persone, perché le persone hanno una libertà che viene più dal profondo, e questa libertà è la libertà che viene loro dal disegno di Dio. E allora ancora una volta ci troviamo confrontati di fronte a due logiche diverse. Da una parte i farisei e gli erodiani, che sono i primi prigionieri della legge, i secondi prigionieri dell'impero. Dall'altro invece abbiamo Gesù con la grande immagine di libertà che sa restituire la libertà a tutti coloro che lo seguono. Una libertà che va al di là del pagare o non pagare il tributo, ma che va più in profondità, va nella profondità della identità dei figli di Dio. Vedete, noi potremmo essere i più ricchi di questa terra, avere tutto quello che possiamo, ma Gesù indirettamente ci sta dicendo che non sono le cose che abbiamo a darci la felicità, perché le cose che abbiamo portano l'impronta di Cesare, l'impronta dell'imperatore di turno. Ciò che ci dà veramente la serenità di fondo, la pienezza di fondo è quell'immagine che viene da Dio e che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Peccato che spesso preferiamo magari sottometterci all'impronta degli imperatori di turno piuttosto che coltivare, custodire, far crescere l'immagine di Dio che ci caratterizza fin dalla creazione. Ecco, cari ascoltatori, le grandi provocazioni che ci vengono da questo brano di Marco, che ci descrive l'inizio di questa terza visita di Gesù al Tempio di Gerusalemme. Una visita dove abbiamo visto Gesù viene interpellato prima sulla questione della sua autorità, quindi si trova di fronte a un secondo momento di confronto con la parabola dei cosiddetti vignaioli omicidi e infine si trova davanti al cosiddetto tributo di Cesare, alla moneta di Cesare, e ribadisce ancora una volta non solo la sua autorità ma la libertà degli uomini di fronte a Dio. Ecco, lasciamo che questa pagina possa continuare ad arricchire la nostra riflessione della parola di Dio. Ed ora, mentre ciascuno di voi può preparare la propria domanda, il proprio interrogativo per continuare nella nostra riflessione, lasciamo ancora un breve stacco musicale. Vi ricordo che le vostre domande, i vostri interrogativi sono importanti per continuare ad approfondire quanto ci siamo detti. Quindi li aspetto, li attendo e sono un dono che ciascuno di noi fa all'altro che ascolta. A presto. È Radio Maria? Pronto, buonasera, mi dica, con chi buonasera. Parlo? Buonasera, con Caterina in provincia di Frosinone. Mi dica, Caterina. Ecco, io sono non vedente, non cammino. Ho 78 anni, ho 8 figli, ho avuto 24 nipoti e sto sempre a pregare. Sono 10 anni che sto seduta qui e mi parlo, io canto sempre Radio Maria, sempre, notte e giorni. Allora vi sento con amore, il mio cuore mi si apre quando sento queste cose belle, però poi ho paura, c'ho un terrore della paura quando sento Padre Dio che dice state pronte, state attente. Io ho tanto paura. E poi un'altra domanda, qualcuno mi dice sempre deve arrivare Gesù, vieni, quando viene Gesù? Io sto sempre aspettando lui. Signora Caterina, la ringrazio di questo suo intervento, prima di tutto benediciamo insieme il Signore per la bella famiglia che le ha dato, 8 figli, 24 nipoti, è una grande tribù che la circonda, quindi questo è un grande dono di Dio. Io penso che il Signore ci fa visita ogni giorno. Lei dice, ma quando viene Gesù? Gesù anche stasera l'ha visitata attraverso la sua parola. E attraverso questa pagina del Vangelo di Marco, Gesù gli ha detto, guardi signora come lei e insieme a lei la sua famiglia, il popolo intero, il popolo di Dio, l'umanità, quanto l'umanità è cara a Gesù. È così cara a Gesù che Gesù è intervenuto in modo durissimo nella parabola del capitolo 12 contro delle persone che erano alcune delle autorità religiose del tempo che volevano bistrattare il popolo. È intervenuto in modo deciso dicendo che il popolo appartiene a Dio e se non ci sono guide degne di questo popolo, lui ha preso la vigna e l'ha affidata ad altri, dove questi altri non sono altre autorità, ma è Cristo stesso che per questo popolo ha donato la vita sulla croce. Quindi ha una fede che magari può essere caratterizzata in alcuni momenti dalla paura, dobbiamo sostituire una fede che è caratterizzata dalla gratitudine, dalla riconoscenza. Davanti a una pagina della parola di Dio, questo è un insegnamento che padre Andrea Gasparino mi ha lasciato negli incontri che avevo con lui e che ha cercato di trasmettere anche in tante catechesi a Radio Maria. Padre Andrea Gasparino diceva sempre, davanti a una parola di Dio, la prima domanda che vi dovete fare non è mai cosa devo fare, ma quale aspetto dell'amore di Dio traspare da questa pagina della parola di Dio? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare, perché solo così il nostro cuore si apre e di fronte all'accoglienza dell'amore di Dio cerca di rispondere con un'azione che non è però dettata dalla paura, ma è dettata dal desiderio di una risposta d'amore. La paura nel cammino di fede deve rimanere solo come timore di Dio, che è quel senso di rispetto, quel senso di attenzione, di cura alle cose di Dio che non ci fa perdere il senso del mistero e la grandezza del dono che Dio ci dà. Grazie comunque Caterina per questa tua testimonianza e a te che hai perso il dono della vista, e sono sicuro che il Signore dà modo di cogliere, di vedere, di gioire per tante tante altre cose, come alcuni di altri ascoltatori, che so tra voi ascoltatori ci sono altre persone che non vedono ma che coltivano una passione per la parola di Dio inedita. Pensate, alcune settimane fa ho ricevuto proprio una mail, una telefonata da uno di voi ascoltatori, uno di voi che non vede, ma che è così appassionato dalla parola di Dio che chiedeva a noi come casa editrice quando possiamo rendere disponibile anche la parola di Dio in altri formati, in altri linguaggi che possano essere letti in braille oppure per persone che hanno difficoltà di visione con caratteri grandi, ma tutta la Bibbia, in modo che la Bibbia possa essere letta e accostate in altri modi. Altri che ci chiedono degli audiobook, cioè dei libri che possano essere ascoltati, dove la parola di Dio può essere ascoltata. Quindi vedete, ciò che importa è coltivare proprio questa passione e lasciarci guidare da Dio e dalla parola, dalla sua parola, nei modi più diversi. Grazie Caterina. Sono Franco da Segrate. Mi dica Franco, qual è la sua domanda? Non è una domanda, volevo solo rimarcare l'apprezzamento per il parallelo che lei ha fatto tra l'immagine di Cesare sulla moneta, che dunque è giusto che la moneta vada a Dio, e noi fatti immagine di Dio e che quindi dobbiamo andare verso Dio. Solo questo. Grazie. Grazie Franco per questa tua sottolineatura, che non solo ci ricorda la nostra origine, noi siamo originati in Dio, Dio si rispecchia e vuole parlare attraverso di noi, ma ci ricorda anche la nostra grande libertà. Proprio perché portiamo dentro di noi l'impronta di Dio, questa impronta è indelebile ed è come una vocazione alla libertà a 360 gradi. Ecco perché non ci può essere peccato che ci schiaccia in modo definitivo lontano da Dio, finché in noi rimarrà un briciolo di desiderio di camminare secondo la volontà di Dio, un briciolo di desiderio di opporci alla logica del male, ecco, dentro di noi quell'impronta non viene meno e diventa così efficace da renderci gli uomini capaci di lottare anche contro ciò che sembra sembra impossibile da sconfiggere. In Cristo l'uomo è vincitore. Ecco allora quel grande inno che Paolo canta nella lettera ai Romani, al capitolo 8 della lettera ai Romani, quando di fronte alla contemplazione dell'amore di Dio, quindi di questa impronta di Dio dentro di noi, conclude dicendo: ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. E poi aggiunge: io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, quella impronta, quell'icona, quell'immagine di Dio in noi è proprio questo amore di Dio che si è rivelato in noi, in Cristo Gesù nostro Signore. Grazie Franco per questa tua sottolineatura. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Concetta, la chiamo da Aosta. Senta, volevo fare questa domanda che è un po' a margine rispetto alla catechesi che lei ha tenuto stasera. Volevo chiedere questo, ma se non ci fosse il male nel mondo, come la creatura di Dio potrebbe operare una scelta? Vale a dire, il male è comunque stato necessario a Dio per far sì che noi potessimo scegliere tra bene e male. E poi, se nel mondo ci fosse solo il bene, non si correrebbe il rischio che l'uomo potesse credersi lui l'artefice del bene? Allora, cara signora Concetta, lei mi pone domande di alta teologia. Posso riflettere e tentare di rispondere la volta prossima, non sono domande a cui si può rispondere in modo improvvisato. Posso al momento dire una sola cosa, che il male nel racconto biblico è il frutto di un atto di ribellione. Un atto di ribellione che gli uomini, Adamo ed Eva, compiono perdendo di vista proprio quella immagine e somiglianza con Dio di cui abbiamo cercato di illustrare nel nostro commento. Cioè, di fronte al mistero del male, al mistero di Satana, Adamo ed Eva sono tentati di vedere che l'immagine che li realizza è oltre, l'immagine che li realizza non è in Dio, Dio tiene qualcosa per sé, non ha passato loro a tutto, Dio sa che si aprirebbero i vostri occhi, tira. Ecco, di fronte a questo si nasce, ecco, quella che è la tentazione di una ribellione di fronte a Dio, e qui scatta il male. Come questo possa configurarsi a livello teologico, ecco, richiede da parte mia una riflessione e un approfondimento. Se lei ha pazienza di aspettare tra un mese, quindi il terzo lunedì di ogni mese, nella prossima trasmissione cercherò di darle una risposta. Preferisco non darla ora perché rischierei di non esprimermi in modo corretto. La ringrazio per la sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Cinzia da Torino. Mi dica, Cinzia. Buonasera, don. Senta, l'ho ascoltata l'ultimo pezzo perché sono salita in macchina in quel momento e sono riuscita a ascoltare l'ultimo pezzo. Sì. Allora, ciò che mi ha colpito molto è la frase che ha detto, ciò che pienezza è l'immagine di Dio, no? E praticamente io mi trovo sempre in conflitto magari a dare importanza a altre cose materiali, anche se comunque faccio un cammino di fede, no? Però mi capita comunque di avere questi momenti di tristezza, che mi fa paura un po' il futuro, no? Allora, quello che ha detto lei stasera, di Dio, forse è quello che mi manca, no? Di portarlo sempre con me nel cuore. Anche come le ripeto, che comunque prego sempre, vado in chiesa, però sperimento questo allontanamento, un po', come posso dire, da Dio. Certo. E volevo un consiglio da lei. L'ascolto per radio, eh? Grazie Cinzia per questa tua domanda, perché ci permette di approfondire un aspetto importante. Ognuno di noi cerca la pienezza, è alla ricerca di questa pienezza, nessuno di noi ha la pienezza di Dio, questa l'avremo solo nel giorno in cui saremo faccia a faccia con Lui e saremo in grado di accogliere in pienezza il suo amore. Quindi dentro di noi ci possono essere di fronte al cammino di fede sentimenti diversi. A volte lo spirito ci dà la gioia che viene dalla contemplazione del mistero di Dio e sentiamo di essere totalmente in pace con noi stessi, con il mondo, capaci di fare dei grandi atti di carità, dei grandi atti di perdono. Altre volte invece nel nostro cammino di fede, nei nostri momenti di preghiera, lo Spirito Santo tace e allora magari seguire quella che è la via di Dio è più difficile e magari a tutto questo si aggiungono fatiche sul lavoro, fatiche nelle relazioni, fatiche nel cammino di crescita personale, alcuni disagi o fisici o di diverso tipo, e tutto questo incide su di noi, tutto questo incide sul nostro sentimento, sul nostro modo di accostarci al Signore, e magari lascia quel senso ora di paura, ora di insoddisfazione, ora di tristezza. Questo non significa che la prima parte è quella in cui siamo soddisfatti e siamo in pace con noi stessi e con il mondo, sia migliore della seconda, no? Tutte e due le parti sono tappe dell'unico cammino. Tutte e due le parti ci educano, ci rafforzano, ci slanciano in quella che è la lotta per la vita. È il titolo questo di un libro di Enzo Bianchi, che paragona proprio il cammino cristiano come una lotta per la vita. In alcuni momenti questa lotta ci chiede delle energie maggiori, in altri momenti il Signore riversa su di noi delle consolazioni. Mentre lei mi poneva la sua domanda, mi veniva in mente uno dei brani tipici del Vangelo di Marco, proprio prima di raccontare l'arrivo di Gesù a Gerusalemme. Se ricordate le altre trasmissioni, dicevo che il lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme è caratterizzato da due incontri di Gesù, uno all'inizio, quando Gesù parte per incamminarsi a Gerusalemme, e uno alla fine. L'incontro che Gesù ha all'inizio è il famoso incontro con l'uomo ricco, quello che noi chiamiamo il giovane ricco. L'incontro con quest'uomo si conclude con la tristezza, cioè quest'uomo è un uomo in ricerca, arriva entusiasta davanti a Dio, si pone in ginocchio davanti a lui, gli dice: ma cosa devo fare per avere la vita eterna? Sembra pronto a spaccare il mondo pur di avere la vita eterna. E quando Gesù gli risponde di lasciare tutte le sue cose e di seguirlo, una grande tristezza invade il suo cuore. Al punto tale che il verbo utilizzato per dire quella tristezza è molto raro nel Nuovo Testamento. In Marco viene utilizzato due sole volte, qui nel momento di quell'incontro e poi nel contesto dei racconti della Passione, quando Gesù predice ai dodici la dispersione generale e tutti sono presi da un'angoscia profonda. Ecco, quell'angoscia viene descritta con lo stesso verbo che indica la tristezza dell'uomo ricco. In genere noi siamo portati a identificare questa tristezza come un elemento negativo. Invece no, quella tristezza potrebbe essere una grande opportunità data a quell'uomo. Nel momento in cui lui sente la tristezza invadere il suo cuore, sente che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che non è indifferente alla richiesta che Gesù gli ha dato. E anche se se ne va con la tristezza nel cuore, l'Evangelista non ci dice cosa poi quella tristezza ha prodotto in lui. Può darsi che quella tristezza ha scavato così tanto da poi trasformarsi in desiderio di conversione. Una cosa importante è il segno che ci permette di discernere se un senso di tristezza viene da Dio o viene dal demonio, perché non dimentichiamo, c'è sempre lo spirito del male che ci vuole dalla sua parte, che vuole strapparci l'immagine di Dio che noi portiamo dentro di noi. Ecco, un criterio di discernimento è il frutto di questo sentimento. La tristezza che viene da Dio è una tristezza che provoca la conversione. La tristezza che viene dal male è una tristezza invece che ci chiude in noi stessi, che lentamente ci porta ad essere scorbutici, chiusi, musoni, incapaci di dialogare gli uni con gli altri, incapaci di apprezzare i doni di Dio. Senza nulla togliere alla lotta quotidiana che noi dobbiamo fare, la lotta che viene da Dio è una lotta che ci lascia stanchi ma non senza energia. La lotta invece che facciamo con le nostre sole, forze ci sfianca e alla fine ci lascia non solo un po' musoni ma anche lamentosi, perché ci praticamente butta in quella forma di autoflagellazione che non serve a niente e a nessuno. Quindi Cinzia, prova a valutare bene, ecco, da dove viene questo sentimento che ti accompagna. nel cammino di fede questo sentimento è importante e se viene da Dio è un sentimento che ci spinge a reagire, che ci spinge alla conversione. Grazie per la tua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera padre. Sì, con chi allora, parlo? Parla con Maria da Milano. Mi dica Maria. Allora, nello scontro tra l'uomo ricco e Cristo, e proprio nel praticamente in Isaia e in Marco, io ho pensato che l'ambiguità di Cristo è la contrapposizione, cioè l'ha fatto apposta, perché noi cerchiamo la verità. E dato che ogni cosa che noi facciamo, ogni azione, ogni lettura, dobbiamo vedere sempre la contrapposizione, cioè la verità non è facile, è una ricerca. Io sono la via, verità, vita, è una ricerca continua, perciò noi cristiani dobbiamo avere sempre dei dubbi quando noi diciamo, parliamo, preghiamo, non dobbiamo essere così leggeri, perché tanto siamo cristiani, facciamo il bene, facciamo qua, facciamo là. Io invece penso che ogni parola che Gesù ha detto è molto importante per la nostra ricerca spirituale. La ringrazio e voglio ascoltarla per radio. Grazie, buonasera. Grazie signora Maria per questo suo intervento. Lei ricorda in modo indiretto con il suo intervento che nessuno di noi ha la verità con la V maiuscola in tasca. Anche i cristiani più illuminati non hanno la verità in tasca. Non a caso Gesù, lei giustamente ha menzionato questa citazione di Giovanni 14, Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù non si è definito solo la verità. Se fosse definito esclusivamente la verità, si sarebbe in qualche modo associato a tutta una serie di maestri di una certa filosofia, che avrebbe portato una certa filosofia. Gesù non è questo, è molto molto di più di tutto questo. Gesù è la vita. Ora il nostro percorso cristiano è un percorso che, stando all'insegnamento dell'Apostolo Paolo, ha come obiettivo quello di far vivere Cristo dentro di noi. E tutto il nostro cammino spirituale sta qui. Noi nel nostro cammino spirituale non cerchiamo di imitare Gesù. Una spiritualità della pura imitazione può essere rischiosa. La spiritualità cristiana è molto di più. Parte dall'imitazione, ma per arrivare molto più in alto. È una spiritualità della conformazione, dove Gesù è chiamato a vivere dentro di noi. Finché lo imitiamo, lui resta una persona esterna a noi, è quasi un quadro da raggiungere, da imitare. Ma se noi passiamo dall'imitazione alla conformazione, Gesù è dentro di noi. E giorno dopo giorno, in base alla nostra crescita, cresce quella possibilità di fare in modo che Gesù possa parlare attraverso di noi, agire attraverso di noi, vedere le cose attraverso di noi, quindi cambiare il nostro modo di vedere. Ed è ovvio quindi che man mano il Cristo cresce dentro di noi, man mano anche il nostro modo di vedere le verità cambia. Ecco perché la scrittura in questo è anche una grande maestra, perché noi dalle pagine della scrittura notiamo come la verità si arricchisce e si trasforma. Pensate persino su concetti importantissimi come quello del ritorno di Cristo. La signora Caterina che ci ha chiamato, che ha fatto la prima domanda, diceva: ma quando Gesù torna? Quando Gesù viene a farmi visita? Bene, era questa una delle domande che attraversavano anche le prime generazioni cristiane. Ora, se voi leggete le lettere di Paolo, cosa notate? Notate che Paolo a questa domanda dà risposte diverse in base alla sua fase di vita. All'inizio del suo percorso umano e spirituale, Paolo dice: Gesù tornerà subito. Dopo qualche anno di maturazione, Paolo dice: Gesù non tornerà subito, ma probabilmente alcuni di noi saranno ancora in vita quando torna. E poi invece, alla fine della sua vita, Paolo dice: Gesù tornerà e nessuno sa quando tornerà. Quello che ci chiede è di renderlo presente qui ed ora attraverso la nostra vita, il nostro stile di vita. Quindi è importante l'immagine che noi portiamo di Dio attraverso la nostra testimonianza personale e comunitaria. È ovvio che sono tre modi totalmente diversi di rispondere alla domanda, però sono tre modi che ci mostrano come man mano l'uomo cresce, man mano la percezione della verità si approfondisce e si arricchisce. Ed è questo il cammino cristiano. Nessuno di noi ha la verità in tasca, anche se ci sono alcuni principi che sono fondamentali e fondanti, ma man mano noi cresceremo nel cammino di fede, riusciremo ad approfondirli sempre di più. Grazie di cuore, signora Maria, per questo suo interrogativo. Pronto? Buonasera, chiamo Pietro e chiamo da Milano. Mi dica, signor Ci troviamo quasi tutti i giorni, io, amici, familiari, a dover valutare quelli che sono gli aspetti e i fatti quotidiani con un'ottica cristiana, con l'insegnamento di Gesù. Però molte volte ci troviamo a valutare situazioni di tutti i giorni con un occhio, tra virgolette, poco critico rispetto all'aspetto pratico, perché magari molte volte ci troviamo a valutare la cosa troppo sotto l'aspetto, come posso dire, cristiano, non so se riesco a spiegarmi, magari certe volte viene chiamato buonista questo aspetto. Allora ci si trova a parlare, a interpretare ciò che Gesù ha detto con chiarezza: date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Allora io volevo capire e analizzare meglio questo aspetto che coinvolge, io vedo, molte persone. Io mi trovo spesso a discutere di questi aspetti, cioè vediamo magari atteggiamenti o aspetti della vita quotidiana in cui il cristiano tende a perdonare in un modo un po' strano, un po' particolare, il cosiddetto buonismo. Però il cristiano, secondo me, e qui volevo avere un suo chiarimento, deve avere sempre ben presente che senza giustizia non può esserci misericordia. Quindi secondo me deve anche valutare con aspetto pratico determinati aspetti quotidiani. Non so se sono riuscito a spiegarmi con chiarezza. La ringrazio, signor Pietro. Sì, cerco di rispondere alla sua domanda sperando di aver interpretato bene, ecco, quello che lei ha chiesto. Allora, l'elemento interessante di Gesù quando reagisce di fronte a chi lo vuole trarre in inganno, a chi lo vuole incastrare, a chi lo vuole far cedere da una parte o dall'altra, in genere è sempre quello di non solo allargare le questioni sul tavolo, ma anche di alzarle, elevarle, senza rinnegare quell'aspetto pratico che lei sottolineava nel suo intervento. Prendiamo l'esempio proprio del brano che abbiamo commentato questa sera. Da un lato abbiamo i farisei e gli erodiani che chiedono a Gesù se è lecito o meno pagare il censo all'imperatore, pagare la tassa all'imperatore. La domanda, viste le persone che la pongono, viene posta con due accezioni diverse. Da un lato i farisei, se fanno questa domanda, la fanno da un punto di vista, diciamo noi, spirituale. Dall'altro invece, visto che ci sono anche gli erodiani la fanno da un punto di vista politico. Quindi Gesù si trova confrontato a una duplice risposta. Potrebbe dare una risposta politica o una risposta spirituale. Però rischierebbe sia dando l'una che dando l'altra. Gesù cosa fa? Risponde a questa domanda alzando il tono della discussione. E lo alza, prima di tutto, da un punto di vista teologico, perché non si limita a parlare di Cesare, ma chiama in causa Dio. Poi alza da un punto di vista antropologico, perché dopo aver chiamato Cesare in ballo e anche Dio in ballo, chiama in ballo l'uomo, ricordando all'uomo che lui è immagine di Dio. Quindi solleva subito la discussione da un punto di vista teologico e antropologico. Ma non si limita a questo, va anche molto al concreto. perché nel momento in cui lui dice date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, in modo molto concreto, Gesù tira una linea di confine e dice bene, date pure a Cesare la tassa, ma ricordatevi che l'autorità di Cesare arriva fin qui, l'autorità di Cesare arriva fino alle cose. Poi entra in gioco la vostra responsabilità profonda, che è quello di essere creati a immagine di Dio. Ecco, Gesù non è mai in tal senso astratto, buonista, non risparmia niente a nessuno, pur andando in profondità nelle cose. Lo stesso l'abbiamo notato questa sera con la parabola di Marco 12. In quella parabola dei vignaioli omicidi, Gesù sta ponendo di fronte le autorità religiose che non vogliono capire il suo linguaggio ad un linguaggio molto più duro. Sta paragonando le autorità religiose a delle persone che uccidono non solo la logica di Dio di cui dovrebbero essere testimoni, ma addirittura uccidono coloro che dovrebbero elevare il popolo, plasmare il popolo, salvare il popolo. E lo gettano fuori dalla vigna. Quindi da un lato Gesù richiama un'immagine che le autorità religiose conoscono sulla punta delle dita, conoscono benissimo, che è il cantico della vigna di Isaia, ma dell'altro si serve di questa per scuotere i loro cuori, per cercare di aprire questi cuori che sono diventati insensibili alla parola di Dio. E lo fa nel modo più duro, dando un forte pugno nello stomaco a queste autorità attraverso le immagini forti della parabola di Marco 12. Quindi, ancora una volta, siamo lontani dal buonismo. Ecco, come diceva lei, signor Pietro, noi a volte di fronte ad alcune questioni, ad alcune domande, al fatto di essere chiamati in causa in un modo o nell'altro come cristiani, siamo tentati di dare delle risposte immediate, buoniste. E invece no, bisognerebbe sempre avere quello spazio di riflessione per ricordarci che la parola di Dio è sempre una parola un po' scomoda. Quando siamo troppo buonisti, forse non siamo proprio in sintonia con quella parola che scuote, grazia, cambia le esistenze. Grazie, signor Pietro, per il suo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, padre. Io mi chiamo Alessandro, telefono da Chiti. Mi dica, Alessandro. Allora, io sono un convertito dal 2004, mi sono innamorato di Gesù. E questo l'ho fatto, non questo, quello l'ha fatto lui, si è fatto conoscere lui, tramite l'Eucaristia. Gesù parlava con semplicità alle persone, spiegava tutto, ma quasi col cucchiaino, no? Sì. Io non capisco come mai, io adesso sono accolito, non capisco come mai i sacerdoti non riescono a far capire ai fedeli quanto è bella e importante la parola e quanto è bella e importante la messa in generale. E poi per quanto riguarda mi chiedo perché non ci si affida totalmente al Signore senza chiedersi mille perché e per come. Basta affidarsi allo Spirito Santo e ti guida lui a capire le cose senza chiedere. Mi scusi, l'ascolto per radio. Grazie signor Alessandro per prima di tutto la condivisione di un aspetto importante della sua vita, che è quello della conversione, e dall'altro della sua domanda. Allora, qua noi dobbiamo tenere presente alcune cose. È vero, noi potremmo camminare all'insegna della semplicità, del semplice ascolto e della lettura della parola di Dio, però dobbiamo tenere presente che noi siamo molto diversi gli uni dagli altri. Ci possono essere delle persone a cui può bastare per il loro cammino spirituale, per il loro cammino di fede, una lettura semplice delle cose. Ci sono altri invece che sono attraversati dai perché, da mille perché, da tante domande. E allora in questo caso va rispettato anche il perché, le domande che noi portiamo. A parte il fatto che sono convinto che più noi entriamo nella parola di Dio, più gli interrogativi affiorano. E gli interrogativi non vengono dal male, non vengono sempre dal principe del male, ma vengono dallo spirito stesso, perché diventano come un esercizio a rendere ragioni della speranza che è posta in noi, un modo per approfondire, per scavare nelle cose. Sapete, nella tradizione ebraica c'è un'usanza molto, molto curiosa e molto significativa. Nelle grandi scuole rabbiniche l'alunno più bravo non è quello che sa ripetere nel migliore dei modi la lezione del maestro, ma è colui che fa più domande. L'arte di interrogare, l'arte di far domande è il segno distintivo che una persona sta entrando nei misteri di Dio. Se noi notiamo anche lo stile di Gesù di fronte a una domanda in genere non è quello di rispondere immediatamente, ma a una domanda risponde con un'altra domanda per far avanzare la riflessione. Quindi è importante anche questa dimensione nel nostro cammino di fede. Poi facevo una considerazione che riguarda le nostre, tra virgolette, autorità religiose, che riguarda noi, me anche che sto parlando, cioè l'incapacità a volte di spezzare la parola di Dio, di non dare sufficientemente importanza alla parola di Dio e all'Eucaristia. Allora, qui le motivazioni sono semplici, direi, cioè a volte noi non riusciamo a spezzare con semplicità e convinzione la parola di Dio, prima di tutto perché non ci prepariamo, ed è vero, molte volte improvvisiamo le nostre omelie, improvvisiamo le nostre catechesi, e allora quando uno improvvisa non c'è niente da fare, la parola che esce dalla bocca sa più di improvvisazione che di Spirito Santo, non c'è niente da fare. La parola di Dio richiede, prima di essere spezzata, di essere gustata con colui che ne è in qualche modo l'autore, lo Spirito di Dio. Quindi questa è una delle prime motivazioni. La seconda motivazione è che a volte magari non si ha lo stesso dono, cioè non tutti hanno lo stesso dono nel porgere la parola di Dio, per cui magari qualcuno può essere più portato nel parlare, qualcun altro è più portato nello scrivere, allora anche lì bisogna un attimo saper discernere e valorizzare in modo diverso i doni di Dio. Sottolineava anche nel suo intervento di come a volte non diamo sufficientemente importanza all'Eucaristia. Ecco, riprendo anche questo aspetto perché sono convinto che parole ed Eucaristia siano i nostri due grossi polmoni nella nostra vita di fede. La parola e l'Eucaristia costituiscono l'unica mensa a cui noi dobbiamo nutrire la nostra fede, a cui dobbiamo esercitare i nostri muscoli spirituali. È lì che si cresce e si diventa quindi in grado anche di lottare maggiormente nel cammino di fede. Grazie per la tua testimonianza, Alessandro, che diventa per tutti noi ascoltatori e soprattutto per noi prete, per me prete, uno stimolo a rispettare di più la parola di Dio e l'Eucaristia che ogni giorno troviamo ben imbandita sulle nostre mense. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Con chi parlo? Buonasera. Sono Virginia da Reggio Emilia. Mi dica, Virginia. Sono anche io una non vedente. E volevo dare la mia testimonianza che Gesù è sempre fra noi attraverso i bambini. Loro sono perfetti, sono l'immagine vera di Gesù. Sono i grandi che poi, educando questi poveri bambini, diventano meno Gesù con l'andare del tempo. Ma Gesù è presente sempre con noi e siamo noi che lo rimettiamo sempre sulla croce. È come vuoi che venga. La ringrazio, signora Virginia, per questa testimonianza che ci porta a riflettere sul tema dei bambini e sulla docilità del loro lasciarsi plasmare. Mentre lei parlava, Dicevo, immaginavo qualche ascoltatrice o ascoltatore, no? Che dall'altro lato del microfono, che magari proprio in questo momento c'ha un bambino che fa i capricci, oppure un bambino che sta litigando col fratellino, con la sorellina, un bambino che sta dicendo parolacce. Forse non è che sono proprio così sempre immagini e somiglianza di Gesù in tutto. Certo, ognuno di noi porta l'impronta, però è molto vero quello che lei dice. I bambini sono le persone più esposte a lasciarsi in un certo senso plasmare e ognuno di noi ha la responsabilità di, prima di tutto, farli crescere nella coscienza della grande dignità di essere figli di Dio. E poi abbiamo la responsabilità di far crescere, riconoscere prima di tutto i doni che Dio ha dato loro e poi di farli crescere. Una responsabilità enorme. Cari ascoltatori, la nostra trasmissione, soprattutto la seconda parte, fatta dalle vostre domande, si chiude con due interventi, quello di Caterina e quello di Virginia, che rappresentano un po' nella nostra trasmissione il mondo dei non vedenti. Penso che questa loro testimonianza ci abbia aiutato anche stasera a ricordare come i nostri sensi non sempre sono la via privilegiata per accostarsi a Dio e alla sua parola. A volte, ecco, chi non vede ci ricorda altre dimensioni della nostra vita, altri modi di accostarsi alla parola di Dio, che sono importanti per ogni cuore e per ogni vita. Quindi grazie a tutti voi, cari ascoltatori, a Caterina, a Franco, a Concetta, a Cinzia, a Maria, a Pietro, a Alessandro e a Virginia. Ricordo a Concetta che mi ha fatto la domanda sul mistero del bene e del male, che darò una risposta nella trasmissione successiva, e benedico il Signore insieme a voi. Auguro un mese ricco di frutti e ricco di benedizioni. Ci sentiamo tra un mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.